se io sono per esempio una socia della Popolare di Paperopoli, così tanto, sì, per mi sembra la tua banca giusta, esatto. Ecco, esatto. Che un giorno mia moglie mi ha regalato una bicicletta, da lì è cominciato tutto, endorfine al massimo dopo le gare, perché è un... Il suo matrimonio va comunque a gonfie vele? Maurizio? Questo silenzio? Perché non mi ha risposto? Il suo matrimonio comunque va a gonfie vele? Ah, scusi, non avevo sentito. Sì, ah, vedi? Va benissimo, perfetto, certo, perché... E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole, compagna, che qualche volta impara e a volte sì. Noi oggi parliamo di amici invisibili ad occhio nudo che vivono dentro di noi e che svolgono un ruolo essenziale per la nostra salute. Parliamo dei batteri, ma in modo particolare del microbiota intestinale, da alcuni ribattezzato l'undicesimo organo. La sua composizione ha un ruolo determinante per la nostra salute fisica e anche psichica, perché il microbiota, che un tempo chiamavamo flora intestinale, te lo ricordi, no, Deborah? Certo, oltre fa un sacco di cose, oltre a favorire l'assorbimento dei nutrienti, garantire la digestione, proteggerci dalle malattie, influenza anche la salute e il benessere del primo cervello. Per questo il microbiota è studiato non solo dai gastroenterologi e dagli immunologi, ma anche dai neuroscienziati, che con le ultime ricerche confermano quello che, vi ricordate, Gershon aveva anticipato quando aveva presentato la teoria dei due cervelli. Insomma, abbiamo un cervello nella pancia e un cervello protetto dalla nostra testa. I due cervelli si parlano e si influenzano reciprocamente. Questo forse sarà il motivo per cui, quando ci arriva l'estratto conto, ci viene un po' di mal di pancia. Allora avrete capito che invece per la pagina di denari torneremo a parlare di banche. Ci dedichiamo alla portabilità dei conti correnti, ovvero alla possibilità di cambiare il proprio conto in banca senza costi aggiuntivi e soprattutto con tempi rapidi. Qualcuno di voi si starà già chiedendo, ma che ne parlate a fare? Non si poteva già fare questa operazione? In effetti non ha torto, però ci sono delle recentissime disposizioni del governo in base alle quali questo passaggio dovrebbe diventare ancora più facile e conveniente per il consumatore, quindi per il correntista. Vi spiegheremo tutto a partire dalle 11.45 nella seconda parte della trasmissione, ma iniziate a candidarvi per intervenire in diretta all'800 24 00 24. No, le mani addosso, no, porca miseria. So anche le 4 di mattina. Ma per chi mi ha preso per ostaggio? E poi ti ha autorizzato a toccare i miei fogli, questi sui fogli del libro di Hendrix. E maledetto il giorno che t'ho incontrato. E benedetto invece il giorno in cui Elia Metchnikov, biologo russo e ricercatore dell'Istituto Pasteur di Parigi, vissuto a cavallo del secolo scorso, iniziò a interessarsi degli abitanti del nostro intestino. Intanto salutiamo subito il professor Vaira. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletto, buongiorno Deborah. Buongiorno. Una bellissima notizia quella che le ha dato. Vero? Quella dei due cervelli. Quindi c'è anche un cervello di riserva. Che può sempre esserci utile. Scusi se è poco. Ecco, allora già abbiamo due cervelli, teniamoli, parlano tra di loro. Oggi parliamo proprio di questa relazione che spiega tantissime cose. Deborah l'anticipava, no? Guardiamo il conto corrente, abbiamo un po' di mal di pancia. Sono numeri da conto corrente, cara Nicoletta. Parliamo di 10 milioni, di 100 miliardi, ci sono numeri da conto corrente. E infatti sono loro, gli amici di cui vogliamo parlare, sono tantissimi, vivono con noi e per noi e noi siamo legati a loro a doppio filo. Parliamo dei batteri, coinquilini preziosi. Il professor Vaira diceva ci sono numeri da conto corrente, ne vivono 10 milioni nel nostro stomaco e 100 milioni nel nostro intestino, alcuni buoni, altri cattivi, ma questa è la vita, professor Vaira. Non è l'intestino, 100 miliardi, proprio conto corrente veri, 100 miliardi, cara Nicoletta, 10 milioni nell'intestino, 100 miliardi, 100 miliardi sì. Nell'intestino. Un tempo, professore, si chiamava flora intestinale, oggi si parla più correttamente di microbiota intestinale, che è un vero e proprio organo di cui dipende la salute, ma anche alla luce delle più recenti scoperte, sappiamo che è implicato anche nella genesi di malattie digestive ed extradigestive. Ci racconta un po' come funziona? Sì, intanto volevo dire che all'inizio noi abbiamo, quando siamo nati io e lei e la Debra, avevamo solo i bifidobatteri. Sì. Lo sa lei questa, vero? Poi appena siamo nati, io lo so perché l'ho frequentata un po', e allora queste cose qua, il cielo, i lattobacilli hanno detto ma ci piace questo intestino di del professor Vaira, della Nicoletta, della Debra, e sono arrivati anche i lattobacilli. E poi quando diventeremo tantissimo tempo, fra un mucchio di anni, un pochino più anzianotti, invece arrivano i Clostridium, che sono dei maledetti batteri. Questo per dire che in realtà noi è parte integrante del nostro sistema e che ci aiutano in tutte le nostre funzioni. Quindi, a parte gli scherzi, adesso è veramente una cosa troppo importante. Ci aiutano in pratica a migliorare il nostro sistema immune, ci proteggono, ci producono delle vitamine. Sono veramente parte essenziale del nostro organismo. Professore, è vero che il microbiota è qualcosa di molto personale, un po' come le impronte digitali? Ciascuno di noi possiede particolari specie batteriche ed è privo di altre. Questo potrebbe, ad esempio, spiegare la ragione per cui nella stessa famiglia c'è chi si prende l'influenza e chi riesce ad evitarla, ma anche spiegare forse il segreto di chi pur mangiando molto resta magro o pur mangiando poco tende a ingrassare, corretto? È vero in parte, cara Nicoletta, è vero in parte, non c'è un bel dubbio che il nostro DNA ce lo portiamo, ma in realtà per quanto riguarda i batteri non è che esistono poi dei batteri particolari di Nicoletta, di Deborah, del professor Vaira, esistono degli equilibri diversi che interagiscono, questo sì, con i nostri cromosomi, con il nostro DNA, che quindi ci proteggono di più, ci proteggono in meno. Ma professore, quali sono allora i segnali che ci fanno capire che il nostro microbiota gode di buona salute o invece sta attraversando un periodo un po' critico di difficoltà? La difficoltà è legata innanzitutto alla astenia, cioè mancanza di forza. La difficoltà è dovuta alla cefalea, mal di testa. La difficoltà è dovuta alla facile irascibilità, ci arrabbiamo con un non nulla. E last not least, come dicono gli inglesi, il famoso disturbo intestinale. Questo pancino un pochino altalenante che ci fa correre in bagno, oppure stiamo lì per una settimana che dicono beh, che diavolo è successo al nostro intestino? Sta dormendo della grossa. Quindi quando noi ci sentiamo infastiditi, irritati, infiammati? Proprio così, mia cara, e con il pancino gonfio e con questa fastidiosa sensazione di aver mangiato solo una insalatina, ma sembriamo parenti di Asterix e di Obelix che ha appena finito di mangiare un cinghiale. Allora, professore, 800 24 00 24, oggi regole per una convivenza sana, lunga e felice. Se invece il vostro intestino, la vostra pancia vi manda dei segnali, non trascurateveli, perché potrebbe forse indicarvi che i nostri inquilini non sono tanto amici, non se la stanno passando tanto bene. Forse è colpa nostra, professor Vaira. Quali sono le attenzioni che dobbiamo assicurare ai nostri coinquilini per renderli tranquilli, sani e felici e per far sì che lavorino per la nostra salute? Una sana alimentazione, cara Nicoletta, e bere l'acqua, una sana alimentazione e bere acqua. Fondamentalmente non fare gli stravizi. Questo è il concetto fondamentale, ma non abbiamo bisogno di un, come dire, di un segreto mega galattico. Una sana alimentazione, mangiare con un attimo di tranquillità e non ingurgitare come siamo purtroppo costretti a fare tutti noi, non aspettare la sera per finalmente fare un pasto luculliano che è esattamente il contrario di quello che dice la fisiologia, perché la fisiologia ci dice di mangiare tutto quello che vogliamo a colazione. poi un lunch, come dicono i nostri inglesi, è un brunch, quindi un, in pratica un pranzo leggero, e la sera dovrebbe essere invece una cena leggera, esattamente il contrario di quello che facciamo noi tutti italiani. Allora, professor Vaira, invitiamo gli ascoltatori a chiamarci. Se provi a fare un identikit della persona con cui le piacerebbe scambiare due chiacchiere per dare dei consigli, oggi a Cuore Denari. Per esempio la classica signora con la pancia gonfia che non riesce più a mettere i suoi jeans e che non riesce più a mettere quel vestitino che tanto gli stava bene e per cui c'è questo pancino che gli dà veramente un problema esistenziale, ed ecco che si mette in moto il secondo cervello, quello di cui lei parlava, e questa è una cosa seria. Il secondo cervello gli dice: mi sa che tu mi stai trattando molto male, io non ti permetto più di indossare quel vestitino, quel tubino che tanto ti piaceva. Questo porta, no, sì, infatti, stavo, mentre Deborah lei faceva questa considerazione, professor Vaira, ho lanciato uno sguardo a Nicoletta invitandola a raccogliere il mio pensiero. Perché proprio le donne ha indicato per prime? Sono le prime che subiscono un po'? Le prime perché innanzitutto sono quelle che bevono meno acqua. Ah. Questa è la cosa fondamentale, è che tra virgolette hanno più stress rispetto a noi maschietti. E quello stress che poi naturalmente viene subito raccolto dal secondo cervello, quindi è proprio così, a mo' di parafulmine, quindi come se ci fosse delle scosse tonico-cloniche, come se ci fosse delle scariche elettriche nell'intestino, per cui il povero intestino non si contrae in maniera fisiologica, si contrae in maniera, mi passi il termine, quasi come un po' di aborto, cioè non in maniera completa, e quindi fondamentalmente crea una fermentazione, cioè produce delle maledettissime, mi passi il termine, non particolarmente carine, in realtà erano schifulente, bollicine di gas leggerissime che non vanno giù e tornano su. Professor Vaira, oggi cercheremo di così individuare chi sono i batteri buoni e quali sono, ci sono anche naturalmente dei batteri cattivi, ma professore, nella vita, no? Ci sono i buoni e ci sono i cattivi, anche nel nostro microbiota. Professore, se noi pensiamo ad un disturbo molto diffuso, il colon irritabile, può essere letto anche in base alla teoria dei due cervelli? Al mille per mille sì. Al mille per mille sì. Lo vogliamo descrivere rapidamente questa sindrome? Quando mi sono laureato io, purtroppo 35 anni fa, colon irritabile voleva dire tutto. Adesso dopo 35 anni colon irritabile vuol dire fondamentalmente che non abbiamo delle patologie organiche, come dire, non c'è un tumore, non c'è una malattia celiaca, non c'è un Helicobacter, non c'è un'intolleranza, ma c'è questo secondo cervello, come giustamente lei lo chiama, che fa fatica a rimettersi in sesto, e questo è dovuto a quello che noi chiamiamo la disbiosi, cioè questa alterazione dell'equilibrio tra i batteri buoni e i batteri cattivi, e giustamente l'organismo si arrabbia perché c'è una prevalenza di batteri cattivi e fa fatica a rimetterli in equilibrio con i batteri buoni. Allora, intanto arrivano numerosi messaggi al 349-238-6666. Tra poco andremo da Luciano da Roma, che ci parla un po' del re dei batteri cattivi che vivono nel nostro stomaco, a cui abbiamo dedicato numerose puntate proprio con il professor Vaira. Ma intanto, professore, sempre quando lei arriva a Cuore Denari, i nostri ascoltatori le fanno un sacco di complimenti. Anche Massimo da Rimini scrive: il vostro prof è eccezionale. Ma Bruna e altre amiche, esatto, si riconoscono nel profilo da lei tratteggiato. Io sono proprio quel pancino, aiuto professor Vaira, mi dica che cosa fare. Professore, iniziamo. Assumere probiotici, assumere probiotici, possibilmente sia lacto che bifidobatteri. Esistono dei probiotici che hanno entrambi questi meravigliosi batteri buoni, quindi lei chiama una colonia, quelle meravigliose colonie romane che vingevano in tutto il mondo, arrivano due colonie romane, una di lattobacilli e una di bifido, ma in realtà vanno a braccetto e vanno a distruggere, a sconfiggere le colonie cattive di batteri. No, Nicoletta intanto la continua a distrarre. Perché è un tema che a sì. Deborah interessa molto. E allora, tanto che il professor Vaira parla, raccoglie delle cose e mi dice: Nico, ma questo, sì. No, stavo chiedendomi se sono i fermenti lattici che vanno presi, per esempio, dopo un problema intestinale, magari derivante da una brutta influenza, no, di quei virus che colpiscono proprio l'intestino, professor Vaira, oppure probiotici e fermenti sono due mondi diversi. Sono le stesse identiche cose. I probiotici sono batteri vivi. Quello che lei ha citato per prima, il russo, poverino, è un po' come il nostro Guglielmo Marconi di Bologna, che all'inizio del secolo ha detto: adesso signori vi faccio parlare con un filo. E tutti hanno detto: questo è un pazzo furioso. È andato a Londra e, ringraziando il cielo, gli inglesi l'hanno creduto. E questo grandissimo scienziato, non a caso ha vinto il premio Nobel, ha detto: adesso signori io vi curo con dei batteri vivi. E tutti volevano metterlo a rogo. In realtà aveva capito veramente tutto, quindi dando dei batteri vivi buoni noi ricomponiamo l'equilibrio. Allora, un nostro ascoltatore scrive: c'è un modo per pulire l'intestino, farina di semi di lino e kefir per 3 settimane, vero? Possiamo saperne di più, professore? Oh mamma mia, qua siamo nel paranormale, cara Nicoletta, quindi noi tentiamo disperatamente di fare il dottore, possibilmente con un po' di scienza, qui siamo nel paranormale, abbiamo bisogno di acqua fondamentalmente, l'acqua è quella che ci serve. Abbiamo bisogno di cose semplici. Meno intrugli e più, il nostro organismo è meraviglioso, Nicoletta e Deborah, riesce addirittura a resistere ai dottori, quindi più resistente di così non esiste. Cioè, ecco. L'importante è che noi non inficiamo in maniera negativa. Allora, io direi di dare la parola sicuramente a Luciano, che ci aspetta. Buongiorno Luciano, lei ci parla di un re, del re dei batteri cattivi che vivono nel nostro stomaco. Buongiorno Luciano. Sì, io la sento bene, grazie. Io sono rimasto molto colpito dalla frase che avete detto all'inizio. Quando arriva l'estratto conto mi prende proprio un blocco allo stomaco, anche a me. E vede? È veramente il secondo cervello, è vero. A me tutto parte dello stomaco, anche quando devo prendere una decisione sul lavoro, eccetera. Se lo stomaco reagisce male vuol dire che non va bene. Io ho chiamato, è vero proprio. È veramente la parte più sensibile del nostro organismo. Tante volte, no? Si prendono delle decisioni di pancia, si dice. E adesso sembra che abbia un fondamento questa espressione. Luciano, ma lei ci chiama per parlare di? Per parlare degli helicobacteri, perché a me l'ho riscontrato tempo fa, durante una visita con un semplice soffio, di avere l'helicobacteri. E quindi volevo sapere se questa cosa era un problema, se deve essere debellato per forza, se ritorna, oppure se dà fastidio, perché so che la cura è lunga e piena di antibiotici. Allora Luciano, nel nostro archivio trova delle interviste al professor Vaira, abbiamo dedicato puntate intere proprio all'helicobacter, ma professor Vaira, qualche indicazione per Luciano, perché evidentemente non aveva ascoltato. Parte appunto di raguirlo, perché vuol dire che sente poco cuore denari, e questo è un negativo. L'helicobacter va assolutamente tolto, Luciano, c'è una cura semplicissima di 10 giorni, lei fa questa cura di 10 giorni e per i prossimi 50 anni lei non ha più problemi, ed è 1000 volte più semplice da guarire rispetto invece alla disbiosi, a quell'argomento di cui stiamo parlando questa mattina. Quindi non abbia paura, lei l'ha già individuato, attenzione, perché l'helicobacter, come ci ha spiegato tante volte il professor Vaira, se non lo eradichiamo fa danni molto seri, per cui per fortuna tra l'altro c'è una cura italiana, è tutta italiana, vogliamo ricordarlo professor Vaira, vero, che vero, eradichiamo nel mondo grazie a voi l'helicobacter. Andiamo a Prato, ce la facciamo prima dei mercati? Sì, buongiorno Fabiano. Sì, buongiorno Fabiano. Senta, ti volevo dire una cosa, io ho cambiato alimentazione, praticamente da prima mangiavo onnivoro, cercavo di mangiare la carne, il formaggio, robe varie, e ora cerco di andare più dalla parte vegetariana, diciamo. Sì. Però inserisco a volte dei fagioli, per esempio la mattina mi fa praticamente degli estratti di frutta, carota, mela, questa roba qua. Per dire, però mangiando anche parecchi fagioli mi sento un pochino più gonfio, ecco, che mi sparirà questa cosa piano piano con il tempo, o no? Chiedo al professore. Professore. Leonardo da Vinci diceva che i fagioli fanno venire un pochino di gonfio alla pancia, quindi come dire, una cosa che sappiamo da 500 anni? o da più di anni, quindi non c'è un bisuffio che questo è così. Detto questo, i legumi vanno meravigliosamente bene, tutta la frutta va meravigliosamente bene. L'importante, mi dispiace, vi annoio, ma bisogna amalgamarla con questa benedetta acqua naturale, quella del rubinetto. Ci serve da impazzire l'acqua, perché in realtà i nostri bacilli, sia i buoni ma meno i cattivi, vivono con l'acqua, quindi se noi gli diamo da bere loro lavorano, se non gli diamo da bere sono stanchi e quindi non lavorano, e quindi significa pancia gonfia, cioè produzione di quelle famose bollicine di gas. Professore, dobbiamo tornare, ma ci torneremo subito dopo i mercati, a rispondere ai nostri ascoltatori sull'uso dei probiotici, c'è molto interesse, sì. Se bisogna prenderli a digiuno, se è meglio prenderli al mattino. Ci sono anche degli ascoltatori come Giorgio da Treviso che lamentano degli effetti collaterali e mi scrive: ciao Nico, perché i probiotici a me dopo un po' mi producono stipsi? Come posso fare per evitarla? Cuore e denari. Tutto cambierà, cambierà, sai che cambierà, cambierà, tutto cambierà. Eh sì, molte cose stanno cambiando proprio in queste settimane nel mondo delle banche. Il governo sta mettendo in campo delle novità che noi qui a Cuore e Denari non possiamo certo lasciarci scappare, visto che ci piaccia o no. Tutti o quasi tutti, anche se per motivi diversi, con la banca abbiamo a che fare, scatenando qualche volta anche le ire del nostro secondo cervello, come abbiamo detto nella prima parte del programma. Venerdì abbiamo parlato della rivoluzione che riguarderà le banche popolari. Oggi ci dedichiamo ad un'altra novità annunciata contestualmente al provvedimento che ha varato la riforma delle popolari. Parliamo della nuova normativa sulla portabilità dei conti correnti. È stata introdotta con il decreto legge su banche e investimenti e le principali novità riguardano tempi e spese. Gli istituti dovranno adottare e concludere la procedura entro i termini previsti da una direttiva europea, massimo 13 giorni lavorativi, senza oneri e senza spese a carico del consumatore. Ne parliamo tra poco. Voi intanto all'800 24 00 24 iniziate a prenotare i vostri interventi e le vostre domande. Pancia, misurati la pancia. Misuriamoci la pancia, ma ricordiamoci che nella pancia esiste un secondo cervello. Professor Vaira, un cervello di riserva, non solo, un cervello che parla anche con il cervello, quello dei piani alti, e comunicano. Sicuramente il microbiota intestinale in questa comunicazione ha un ruolo importante. È fondamentale, non solo comunicano, come giustamente gli dicevo, con i piani alti, ma hanno la linea rossa, quella di Barack Obama, cioè il sistema nervoso centrale comunica immediatamente col nostro pancino, detto in termini volgari, quindi col sistema nervoso dell'intestino, quindi è veramente una linea rossa. Professore, torniamo per dare delle risposte ai nostri ascoltatori molto interessati sul tema probiotici da aggiungere attraverso l'alimentazione, yogurt, fermenti lattici, quando si usano solamente come terapia tra virgolette, quindi dopo un'influenza o per compensare magari l'azione degli antibiotici, oppure ci vuole una sorta di mantenimento, quindi diamo ai batteri che sono nel nostro intestino un aiuto in più per continuare a stare bene. No, mantenimento no, possibilmente, perché ripeto, il nostro organismo è strepitoso, ma sicuramente un aiuto sì, in caso appunto, come giustamente diceva lei, in caso di antibiotici, questo è il tipico, nel momento in cui noi prendiamo degli antibiotici è fondamentale dare un aiuto al nostro intestino, perché è ovvio che gli antibiotici per definizione ci distruggono tutti gli organismi, sia quelli buoni sia quelli cattivi, quindi assolutamente sì, per esempio, questo ci serve da morire, o negli stati di stress, o ancora una volta sottolineo questa reale, questa pancina gonfia che si manifesta con una difficoltà proprio nella qualità di vita giornaliera, Nicoletta, quindi come dire, proprio questa stanchezza per cui noi arriviamo alla fine della sera che abbiamo lavorato in una cava di marmo per 12 ore, in realtà abbiamo fatto delle cose assolutamente normali, tranquillissime. Aggiungiamo tra i sintomi anche quella sensazione che possiamo definire come nausea, inappetenza, una sorta di fastidio che avvertiamo nel corso della giornata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma non c'è un dubbio che qualunque farmaco noi prendiamo, adesso senza allargarci, ma non c'è un dubbio che chi ha purtroppo il diabete, chi ha lo scompenso, chi ha l'ipertensione, come dire, chi è costretto a prendere dei farmaci long life per tutta la vita, sicuramente ha bisogno di supporto. Allora, abbiamo due amiche, Deborah. Certo. Una si chiama da Roma e l'altra dalla provincia di Venezia. Cominciamo con Melania da Roma, forse si era candidata un attimino prima di Daniela, ma insomma indifferente. Melania, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a voi. Ci dica. Volevo dire questo, io prendo medicine perché ho avuto un tumore al seno, quindi prendo tutti i giorni la nastrozolo. Sì. E questo mi provoca spesso nausea, mal di pancia, poi una grande stanchezza, cioè veramente. Però sono anche intollerante al latte. Sì. Quindi volevo sapere se questi probiotici io li posso prendere oppure se nel mio caso mi creano un problema. Grazie Melania. Professor Vaira. Sì, la risposta è sì. Melania sicuramente ne ha bisogno. Fare dei cicli di 3 mesi da assumere al mattino, possibilmente dei probiotici che abbiano sia il bifido che lactobacilli, ma la risposta è sì, sicuramente la Melania ne ha bisogno. Grande giovamento. Grazie, un abbraccio a Melania e andiamo a Daniela. Daniela, sì, buongiorno, dalla provincia di Venezia. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. E quando descriveva il professore mi ritrovavo perfettamente, perché la pancia gonfia, la nausea, il mal di testa, sono stata dalla mia dottoressa e appunto mi avrebbe ordinato una cura di rifaximina e poi mesalina. Volevo chiedere al professore se va bene questo oppure se posso iniziare direttamente con i probiotici. Premetto che ho iniziato una dieta senza pasta, senza zuccheri, senza farine, molto, molto semplice, con verdure e molta acqua, però ancora giovamento no. Ho appena preso la pancia ora leggero e c'ho una pancia come fosse incinta in 8 mesi. Ecco, allora Daniela naturalmente chiede al professor Vaira delle indicazioni, ma non lo ripetiamo sempre, non si possono fare delle diagnosi telefoniche, certo. Ma il professor Vaira sicuramente può prendere spunto dalle richieste di Daniela per dare delle indicazioni. Secondo me Daniela mi vuole far litigare col suo medico di base. Sì. Ammettiamo che l'insenta il medico di base. No, io sinceramente con il sacrosanto adesso parlo seriamente rispetto dei medici di base, perché è ovvio, come giustamente diceva Nicoletta e io lo ribadisco sempre, bisogna visitare i pazienti, non parlarci assolutamente, ma visitarli di viso. Sì. Noi non siamo particolarmente keen, per dire una parola gentile, cioè sulla rifaximina, nel senso che io sinceramente i miei pazienti provo sempre prima dei probiotici. Rifaximina è un farmaco meraviglioso, eccezionale in pazienti che hanno i diverticoli, ma non di prima scelta. Quindi per il pancino gonfio io proverei assolutamente dei probiotici a base di lattobacilli e bifidobatteri. E poi dopo circa un mese, 4 settimane di probiotici, ammesso non concesso non ci fosse miglioramento, si può andare nel secondo step e quindi utilizzare un po' di rifaximina a bassissimi dosaggi. Però 800 24 00 24, stanno arrivando numerose telefonate. Professore, noi abbiamo parlato del re dei batteri cattivi che vive nello stomaco, ma nel nostro intestino come va la situazione? Ci sono dei batteri cattivi che possono metterci in difficoltà? Ma cavolo, c'è quel maledetto clostridio. Bravo, a lui volevo arrivare. Maledetto, bisogna scrivere un altro libro su di lui. La verità è che noi non lo scriviamo perché, ringraziando il cielo, è una cosa relativamente rara. Lei giustamente ricordava le scoperte. Certo. Ce l'hanno 25 milioni di persone. Il clostridium invece siamo nell'ordine del migliaio su 60 milioni, ringraziando il cielo. Ma questo è un altro di quegli batteri che veramente ci dà del cattivi. Filo da torcere. Ah, sì. Così come gli altri, come la candida, la lamblia. Cioè, ci sono, ha capito, tutti questi batteri che bene non ci danno. danno il proteos, le scheriche, la famosa scherica coli, che così affezionata voi donne, alludo alle cistiti, alludo alle vaginiti, insomma. Ma questo professore vuol dire che di fronte a questo tipo di disturbi, abbiamo citato la cistite, abbiamo citato la nausea, il mal di testa, il gonfiore, prima noi possiamo partire con una cura a base di probiotici dove ci siano i latto e il bifido? Sì. Perché la risposta noi... assolutamente sì, ecco. Abbiamo solo da guadagnarci e nulla da perderci. Dobbiamo tenere questo microbiota intestinale come il nostro vivaio. Le piace, professor Vaira? Bellissimo. Ecco, bellissimo. È un vivaio che produce salute, quindi manteniamolo, curiamolo come facciamo con le piantine che abbiamo sul balcone. È proprio è una flora interessantissima. Claudio, buongiorno da Firenze. Buongiorno. Sì. Eccoci. Reflusso, sono breve perché la domanda, la risposta sarà complicata. Reflusso, questo problema del reflusso, chiamano reflusso, chiamano gastrite, ma insomma instabilità totale, brontolii, cause di gas, cioè questo intestino che non riesce a digerire, dopo aver digerito durante la digestione, causa le più strane performance. Esatto. Professor Vaira, un'indicazione veloce per Claudio? Velocissima. Noi abbiamo comunque bisogno di tirare via questo discorso dell'icobacter. Cioè, abbiamo assolutamente, nel fattispecie di Claudio, dobbiamo, così come la Daniela, così come le altre ascoltatori e ascoltatrici, dobbiamo assolutamente tirare via questa possibilità di presenza dell'icobacter. Perché questo per esempio ci altera al mille per mille il microbiota, perché siccome, certo, come lei pensa, ce lo pigliamo a 3 anni, lui interagisce in maniera negativa col microbiota, quindi condizio sine qua non, non ce l'ho ricovata, e quindi già una bella fetta completamente tirata via. Nel momento in cui non ce l'ho ricovata, ci concentriamo appunto sul microbiota, che è la seconda causa in assoluto, e poi in terza c'è il reflusso. Ma voglio ribadire, come giustamente diceva il nostro telescottatore, che spesso e volentieri il reflusso senza ricovatta e senza gastrite può essere dovuto veramente alla disbiosi, cioè una enorme produzione di gas, come dicevo poc'anzi, che invece di andare giù in maniera fisiologica, mi passi il termine e chi può capire sicuramente ha capito, va, ritorna su proprio nella bolla gastrica, e quindi va a disturbare lo sfindere esofageo inferiore, cioè il cardias, e quindi ci dal reflusso. Allora, Helicobacter, maledetto il giorno in cui ti ho incontrato, come recita il titolo di un libro di grande successo del professor Vaira, ma noi diciamo, professor Vaira, benedetto il giorno in cui l'abbiamo incontrato, e così raccogliamo anche i complimenti che stanno arrivando al 349-238-6666. Professore, che dica, venga qua, venga un... Arrivo, blocco l'attività endoscopica di reparto. Faccia un volo, va tanto bene. Qua di pazienti ne trova, professore, non si preoccupi. Grazie. Grazie al professor Vaira, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Grazie a voi. Cuore e denari. Io vado in banca, stipendio fisso. Ho un rotante dei serpenti. I serpenti e delle banche. Allora. È più facile incontrare una banca che un serpente. E per l'estate mi la banca mi marca come se fossi Messi, l'attaccante del Barcellona. Oggi vai in banca e tentano di darti un pacchetto, lo chiamano loro in realtà molto spesso. Che a volte un pacco. È un pacco. Io vado in Un po' di Vox Populi dalle nostre puntate precedenti, Nicoletta, te le ricorderai, perché il tema scatena sempre mal di pancia, grande dibattito, un po' di rabbia qualche volta per gli ascoltatori, insomma tutte testimonianze che ci ricordano quanto sia delicato il rapporto con la banca, e poi alla fine è un'istituzione dalla quale non possiamo fare a meno, perché che facciamo, li mettiamo questi soldini sotto il materasso, non si può fare. D'altronde dalla banca qualche volta ci sentiamo pressati, altre volte ci sentiamo ignorati, altre volte ancora siamo proprio spaventati dal rapporto con la banca, perché abbiamo l'idea di non poter far nulla, di non poter negoziare, di non poter parlare né con l'impiegato né con il direttore, e abbiamo la convinzione di dover subire in ogni modo questo rapporto. E invece se ci capita di decidere di cambiare e di portare il nostro conto corrente in un altro istituto, che si fa? Allora intanto voi raccontateci cosa avete fatto all'800 24 800 24. Noi invece, da parte nostra, vi racconteremo cosa cambierà prossimamente, perché la settimana scorsa è arrivato questo provvedimento in questo pacchetto complessivo che contiene sia la riforma delle banche popolari, delle quali abbiamo parlato venerdì scorso, sia tutte queste novità che dovrebbero velocizzare ulteriormente l'istituto della portabilità del conto corrente. Lo conoscevamo già, ma arriva qualche cambiamento ulteriore. Ci accompagna nel mondo della portabilità un'amica di Cuore Denari, Anna Vizzeri, dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Bentornata e buon anno, Anna. Grazie, buon anno anche a voi, buongiorno. Buongiorno, finalmente. Ti è mancata. Era un po' che mancava, Di Anna apprezziamo moltissimo la grande chiarezza e poi anche la simpatia, perché anche quello aiuta. Noi diciamo che a Cuore Denari diamo per scontato che i nostri ospiti, oltre che essere dei grandissimi professionisti della comunicazione in due campi un po' complessi, di tutti apprezziamo la grandissima disponibilità e simpatia. E li scegliamo anche belli, diciamola. Allora, oltre al numero verde, chiaramente per questo argomento potete utilizzare per scriverci anche il 349-238-6666. Scriveteci su Facebook, utilizzate Twitter, insomma ci potete raggiungere attraverso tantissimi canali. Allora, Anna Vizzeri, il provvedimento numero 3 di quest'anno è entrato in vigore proprio ieri ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale da sabato scorso, quindi abbiamo il testo definitivo venerdì, quando abbiamo preparato la trasmissione. In realtà avevamo ancora una rosa di ipotesi sulle quali ragionare, perché avevamo il testo del decreto, ma adesso che abbiamo tutto il provvedimento in Gazzetta abbiamo proprio un documento formale definitivo sul quale ragionare questa mattina. Abbiamo il testo definitivo dell'articolo sulla portabilità, ce lo legge lei, lo commentiamo insieme? Sì, allora diciamo che l'articolo c'è, è entrato in vigore, però a nostro avviso ancora ci sono molti aspetti che devono essere sicuramente regolamentati, perché così com'è non so quanto possa essere poi operativo. Comunque, diciamo che nel comma 1 si fa un rinvio alla direttiva sulla portabilità sui conti correnti, che è stata approvata a luglio del 2014 dalla Comunità Europea, e quindi si fa riferimento ai tempi di quella direttiva per il trasferimento dei conti. Mi viene subito da dire, Anna Vizzeri, non è che allora il governo ha voluto fare qualcosa di particolarmente dirompente perché ha avuto questa idea? Diciamo che già il Parlamento europeo aveva tracciato la strada e l'Italia doveva adempiere, doveva adeguarsi. Esattamente, quindi abbiamo in parte un recepimento della direttiva, anche se non totalmente, perché appunto si fa riferimento soltanto ai tempi di trasferimento dei conti, però si fa appunto invio ai termini della direttiva, la quale però così com'è sicuramente deve essere resa operativa in Italia, per esempio individuando la procedura interbancaria che deve essere utilizzata per il trasferimento, no? Per cui diciamo, abbiamo comunque come punto di riferimento i termini massimi indicati alla direttiva, che sono in totale 13 giorni lavorativi da quando il cliente si reca in banca per chiedere il trasferimento. Due settimane e mezzo, via, sì. Esatto, giusto. Dopodiché la grossa novità sicuramente è il fatto che viene individuato un risarcimento nel caso in cui la banca fa questo trasferimento in ritardo, quindi oltre i 13 giorni lavorativi. Peccato però che questo risarcimento è un po' aleatorio, nel senso che si dice che deve essere proporzionale alla durata del ritardo e alla giacenza del conto, ma non si entra nello specifico. Certo, come lo quantifichi, che fai un euro per ogni giorno di ritardo, 3 euro, 5 euro, lì si scatenerà, immagino, certo, un po' una presa di posizione. Un pochino ci sarà, sicuramente il cliente potrà fare reclamo alla banca e chiedere un risarcimento, però non si quantifica esattamente quanto potrà ammontare questo risarcimento. Quindi diciamo, insomma, in tutto... Sì, esatto. Mi scusi. Stavo dicendo, quindi abbiamo due punti che sicuramente devono essere regolamentati, magari nella legge di conversione del decreto, che ricordiamo deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Eh sì, esatto, e poi magari chissà se la lobby delle banche avrà modo di metterci becco, lo farà senz'altro, e certamente poi questi due punti che lei ha indicato verranno certamente perfezionati in questo passaggio naturalmente parlamentare. Per cui ribadiamo le due grandi novità di questo pacchetto varato una settimana fa: massimo 13 giorni lavorativi per passare da una banca all'altra e poi eventuali sanzioni nel caso in cui una banca non rispetti questa tempistica, e qua dobbiamo capire appunto appunto come verrà quantificata questo aspetto sanzionatorio. Detto questo, Anna Vizzari, noi l'Istituto della Portabilità è dal 2007 che lo conosciamo, cioè dai pacchetti di Bersani, quindi non è esattamente che sia, come dire, questa novità rivoluzionaria nel rapporto tra banca e cliente. Che dici, Nicoletta? Tu ne avevi sentito parlare, abbiamo parlato un sacco di volte. Certo, già qua a Cuore Denari, ma ancora prima, quando seguivo Danaio. Grazie. Certo. Ecco, allora, rispetto a quell'istituto che già conoscevamo, Anna Vizzari, oltre ai due aspetti che abbiamo detto, sostanzialmente che cosa cambia? Allora, sicuramente i decreti Bersani del 2006 sono quelli che hanno notevolmente riformato, diciamo così, il trasferimento dei conti correnti, soprattutto perché hanno eliminato le spese di estinzione che una volta esistevano quando si chiudeva il conto corrente e che potevano arrivare anche ai 100 euro, quindi una cifra non indifferente. E sono stati anche eliminati i costi di trasferimento dei titoli, anche quelli incidevano notevolmente quando bisognava chiudere anche il deposito titoli insieme al conto corrente. Quindi due grosse novità le abbiamo sicuramente avute dal 2006 in avanti. Qual è la grossa novità di questo nuovo provvedimento? Sicuramente individuare dei tempi certi, cioè sapere con certezza che i famosi 13 giorni lavorativi partono dal momento in cui il cliente si reca in banca per chiedere la chiusura, nella nuova banca peraltro. Esatto. Questo è una regolamentazione di legge che quindi dà sicuramente certezza al trasferimento. Bisognerà poi individuare, appunto, come dicevo prima, come effettivamente verrà messa in pratica la procedura interbancaria. Ha già detto una cosa importante rispetto al funzionamento della portabilità. Se io voglio cambiare conto corrente, la prima cosa da fare non è dirlo alla vecchia banca: guarda, io da domani vado a cercare un'altra cosa. Se lo si vuole fare davvero, bisogna andare nella banca nuova e dire: io voglio venire da te e ti devi incaricare tu di tutto il procedimento. È corretto, Anna Vizzari? Assolutamente, questa è sicuramente una buona novità, nel senso che sicuramente il cliente ha meno difficoltà a recarsi ecco. da un operatore piuttosto che dalla vecchia banca, dove potrà avere magari dei rapporti anche particolari. Quindi naturalmente quando si parla di quella sanzione, se il procedimento non va a buon fine, è a carico di chi? Della nuova banca che non riesce a perfezionare tutto l'atto di portabilità, o a carico della vecchia che non vuole lasciare andare che non il molla. Cliente? Ecco, questo non è specificato, però mi sento di dire, come accade con la surroga del mutuo, quindi il trasferimento del mutuo, che la sanzione sia sempre a carico della vecchia banca. Poi eventualmente saranno le due banche che tra di loro dialogheranno per eventualmente evidenziare dei problemi anche nella nuova banca, nella procedura di trasferimento. Però il principio sarebbe che la vecchia banca, che spesso fa degli ostacoli per il trasferimento, no? E quindi la sanzione dovrebbe toccare alla vecchia. E allora, invece di ostacolare il procedimento di portabilità, che faccia delle condizioni migliori magari al proprio cliente, quindi se lo tenga stretto. Cuore e denari. Si apre l'ufficio del direttore e vedi una luce che ti prende. Lui era seduto con una finestrona dietro su un trono con l'anello della banca. Per te c'era un inginocchiatoio, ti mettevi lì. Diceva: prego, baci l'anello e poi dica: cosa posso fare per lei? Bertolino, Enrico Bertolino, un amico di Cuore Denari sul direttore di banca. È un grande classico di Cuore Denari. Ogni volta che parliamo di tema banca, introduciamo sempre non l'argomento con la sua performance, è vero. E allora ci porta proprio Enrico Bertolino all'ultimo blocco di questa puntata, del lunedì puntata dedicata alla portabilità del conto corrente, cioè al trasferimento del nostro conto corrente da una banca ad un'altra, se troviamo delle migliori condizioni, se dobbiamo trasferirci da un'altra parte, vogliamo come dire portarci dietro il nostro conto corrente perché riteniamo che lo sportello sotto casa faccia più al caso nostro. Insomma, ci sono tanti motivi per cui vogliamo cambiare, sono prevalentemente quelli economici naturalmente. Allora abbiamo questo istituto che ha avuto un piccolo ritocco, esisteva già, questo ritocco è arrivato con il provvedimento sulle banche che ha preso il governo la settimana scorsa, il decreto legge 3 di quest'anno, che da sabato è pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. Se avete così questa tentazione, voglia di andarvelo a leggere, avete la disponibilità, appunto, proprio il suo testo è già pronto ed è in vigore da ieri. Ci sta spiegando tutto un'amica di Cuore Denari, Anna Vizzari, dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, e naturalmente prendiamo molto volentieri le vostre testimonianze all'800 24 00 24 per andare subito al cuore del problema, per capire se nella situazione in cui state avete adesso maggiore facilità a fare questo cambiamento. Eh sì, perché forse velocizzare la chiusura del conto corrente potrebbe convincerci a fare il grande passo, a vincere anche un po' la pigrizia. Certo, perché siamo, come diceva prima Nicoletta, un po' pigri a fare questi cambiamenti. Fedeli, scoraggiati, perché riteniamo che, come dire, non sia facile, che la vecchia banca non voglia lasciarci andare via. Ne abbiamo parlato tante volte, però insomma... Continuiamo a farlo, chiamate l'800 24 00 24 come ha fatto Giuseppe, che ci chiama dalla provincia di Parma, ci sta già aspettando da prima del GR. E quindi poverino, eccolo qua subito in onda. Giuseppe, benvenuto. Se una banca la facesse aspettare come noi, forse la cambierebbe, no? Ci dica. Certo. Buongiorno, niente, allora io ho fatto una richiesta di surroga del mutuo prima casa, quanto c'è stata una campagna pubblicitaria molto convincente, allettante, più convincente, Giuseppe. Esatto, da un tasso 5,30 a un tasso fisso per i primi due anni al 2% e poi dal terzo anno al 4%. Cambia la vita, Giuseppe, la rata di quanto si è abbassata? No, sono dietro a falla, quindi devo avere ancora tutte le risposte, devo aspettare la perizia del perito della loro banca. La rata mi si abbassa di 350 euro. Ecco, appunto, allora ce l'abbiamo la quantificazione. 1143, vado a spendere 8,50 con l'assicurazione. Ecco, sono oltre 3.000 euro in un anno, insomma, buttali via, eccoci qua. La mia domanda era questa, siccome ho sentito appunto anche alla televisione, alla radio, soprattutto tramite di voi, che c'è la possibilità di fare la portabilità del conto corrente, ma anche in questo caso, cioè la portabilità del conto corrente dalla mia banca alla nuova banca lo posso fare o devo aprire per forza con la nuova banca un nuovo conto corrente? Allora, io temo che la banca nuova, Giuseppe, le chiederà di aprire anche il conto corrente per appoggiare il nuovo mutuo, se accoglierà questa richiesta di surroga. Anna Vizzari, certo che se abbiamo un direttore di buona volontà, magari tutto questo trasferimento chiede, però bah. No, nel senso che ovviamente la richiesta di un conto corrente per fare la surroga in realtà non è proprio una richiesta lecita, cioè in realtà è una pratica scorretta, non c'è nessun motivo di dover aprire un conto corrente per poter fare la surroga nella nuova banca. Certo, vabbè, poi è una richiesta che si asseconda, perché pur di poter ottenere una riduzione della rata di 350 euro mi sembra che aprire un conto corrente insomma sia un tema che si può assecondare. Sicuramente questa procedura potrebbe essere utilizzata anche nel caso raccontato, nel senso che se trasferisco il mutuo magari posso anche sentire l'esigenza di trasferire il conto corrente, per cui sicuramente non c'è nessuna limitazione, ecco. Quindi negoziamo un po' con la banca nuova e se la banca ci chiede, visto che io ti accolgo, ti concedo il mutuo surrogato, però tu mi devi aprire il conto corrente, allora chiediamo contestualmente la portabilità completa, oltre a quella del mutuo chiediamo anche alla banca nuova di incaricarsi di tutto il procedimento per chiudere il conto vecchio e accogliere quello nuovo. Ci sono degli ascoltatori, Anna Vizzari, che ci stanno chiedendo al 349-238-6666, peraltro molti casi simili su un trasferimento anche di mutuo, ma qualcuno sta chiedendo gli addebiti automatici, le famose RID. Pare che qualche banca non accetti di fare il trasferimento di queste, quindi per esempio non voglia incaricarsi di dialogare con l'azienda del gas per fare il cambio di parametri bancari, eccetera. Deve farlo questo lavoro la nuova banca? Allora, questo è un grande tema che è arrivato anche a noi ultimamente ed è dovuto un po' alla nuova procedura del SEPA, quindi del RID SEPA che è stato introdotto a inizio anno. Nel senso che cosa succede? Con RID SEPA sostanzialmente l'addebito viene curato dal cliente con l'operatore, quindi nel caso specifico la società di telefonia piuttosto che quella che ci dà l'energia elettrica, per cui succede che in realtà il rapporto è tra il cliente e la nuova società, è il cliente che deve occuparsi del trasferimento. Mentre nel passato il RID veniva gestito dalle banche. Ecco, quindi questa è una cosa che sta succedendo appunto per la nuova procedura. Certo. Ovvero che con questa nuova procedura di trasferimento si dice chiaramente che la nuova banca, che dialogando con la vecchia, si occupa anche degli addebiti diretti. Certo, anche perché ribadisco un po' il tema di cui parlavamo all'inizio, non è che le nuove procedure SEPA, che così a dirle così sono anche complicate, siano proprio una novità. Le banche hanno avuto modo di abituarsi e hanno avuto tempo, hanno avuto delle settimane, dei mesi, Anna Vizzari, per cui devono anche un pochino muoversi nel cercare di stabilire una flessibilità, una maggior fluidità, no? Nel fare in modo che questo non rappresenti sostanzialmente un ostacolo al cambiamento del conto corrente per un cliente. Assolutamente, perché altrimenti è un'altra delle scuse che viene aggiunta alle precedenti per poter evitare il trasferimento, ecco, è un ostacolo all'uscita. Ed è quello che in certo modo sta capitando a Fiorella, che ci chiama da Sesto San Giovanni. Buongiorno Fiorella. Benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Insomma, non la lasciano andare via, Fiorella. Si sono affezionati. Ecco, io sono molto preoccupata perché non mi fanno chiudere un conto inattivo da diversi mesi, perché su questo conto, sul relativo conto inattivo depositi, nel senso, Fiorella, proprio che non inattivo, sto operando non, per niente. Certo, esatto, inattivo tutto attaccato. E io lo volevo chiudere praticamente perché c'era una piccola quantità di soldi, ma vale a dire 30 euro, perché lo volevo chiudere, non me lo permettono perché esistono questi titoli valore zero, dove io purtroppo avevo preso una bella fregatura anni fa, valore zero, e quindi loro ho scritto, riscritto, ho mandato via una lettera di Fiorella, sposizione. Tipo che ne so, ha un Parmalat dentro, un bond argentino, cioè che no, cosa? No, è una ditta, mi sembra americana, System, non mi ricordo più, adesso non sono a casa, purtroppo non riesco a leggere, però è valore zero, e loro sui loro, diciamo, sugli loro estratti che mi mandano c'è scritto valore zero, quindi io non ho altri titoli lì, non mi permettono di chiuderle, però le spese vanno su. Certamente. Io ho mandato via anche le lettere di spossessamento, dove io rinuncio a questi titoli, non li possono trasferire. Non si possono vendere, perché Fiorella, quindi anche la banca, anche se, come dire, accogliesse questo suo regalo, in realtà poi non sa che farsene, perché non c'è mercato per questi titoli, per cui guardi, è una situazione che conosciamo molto bene, perché lei ha un'azienda della quale facciamo fatica a stabilire il nome, ma c'è chi ha ancora, per esempio, le vecchie azioni Parmalat, le Cirio, Anna Vizzari, e questa, pur essendo una situazione apertissima da 10 anni almeno, queste situazioni incagliate sui conti titoli, non c'è una normativa, l'associazione anche delle banche italiane, qua magari invitiamoli a prendersi carico di questo problema, non riesce a stabilire una soluzione. Ma no, perché? Infatti. E non c'è volontà, anche perché poi alla fine la banca non ha nessuna perdita, la perdita del cliente, per cui la soluzione non c'è, purtroppo, perché si tratta di titoli che non hanno mercato, spesso sono titoli che sono sottoposti a delle procedure concorsuali, per cui c'è dietro un giudizio davanti all'autorità giudiziaria, e la banca quindi tiene aperto il deposito titoli con questi valori in attesa del giudizio, e non c'è possibilità di fare niente, cioè bisogna scrivere il conto corrente e il deposito titoli insieme, con ovviamente delle spese enormi, perché stiamo parlando di... Certo, perché questa signora qua ogni anno, anche se fossero 20-30 euro l'anno, sono proprio spese buttate, inutili, e soldi buttati via, soldi buttati. Assolutamente. Che facciamo fare a Fiorella, tra l'altro, a parte magari tornare a denunciare con la radio, con le associazioni dei consumatori questa situazione, ma individuando un'istituzione che se ne possa far carico, Anna Vizzari, l'arbitro bancario? No, l'arbitro bancario penso che nel caso specifico non prenda posizione, perché non c'è una legge che regolamenta il tutto. Io penso che invece si debba risolvere proprio a livello di istituzioni e comunque di associazione bancaria, nel senso che qui le banche devono prendere posizione e chiedere un intervento magari anche normativo, legislativo, per chiudere queste posizioni. Certo. Allora Fiorella, abbia pazienza, magari ci scriva, veramente non sappiamo che cosa dirle, perché purtroppo è una faccenda alla quale non c'è soluzione. Andiamo da Michele? Volentieri. Michele ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno a lei, Michele, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo... il mio problema è che è un conto... Praticamente volevo chiudere il conto in questa banca, che è Monte Paschi di Siena, 10 anni che mi fanno, diciamo, mi fanno ammattire. Se dovessero applicare la normativa che è del rimborso... Tenetevi pronte, Barbara e Debora e Nico. E vi porto in vacanza con me. Allora, noi veniamo. Ah, beh, certo, perché se quantifichiamo tutto il tempo. Allora, intanto, però, diciamo che vale la normativa nuova. Carlo, detto questo, Michele, sì, che capita? Perché Carlo? Lui ti ha chiamato Barbara e tu lo chiami Carlo. Non vi incontrerete mai. Oltretutto, non capisco perché non c'entra niente. No, allora Monte dei Paschi, anche date le difficoltà un po' patrimoniali che ha avuto questa banca, Anna Vizzari, è probabile che chiaramente non si lasci, non voglia far andare via i propri clienti, perché fanno tutti comodo in questo momento, perché è un po' più difficile. Detto questo, con la nuova normativa Sì, però devo dire che anche la vecchia probabilmente ci viene in aiuto nel caso specifico, perché stiamo parlando di veramente anni. Sicuramente anche l'attuale normativa ci dà una mano, nel senso che ricordiamo che tutte le banche nei foglietti informativi devono indicare i tempi massimi di chiusura del rapporto. Nel caso di Montepaschi si dice 35 giorni dalla chiusura di tutti i rapporti, quindi se io ho restituito la carta di credito, il bancomat, gli assegni, non ha altri rapporti in essere, tipo il deposito titoli, lo trasferisco, al massimo la banca può impiegare 35 giorni per la chiusura. Se impiega di più, ho diritto sicuramente a chiedere un risarcimento se ho avuto dei danni. Infatti, quindi Michele ci porta a cena. Guarda, tanto adesso bene. Magari non viene anche Anna Vizzari. Ecco, siamo tanto in tre. Sta qua, tra l'altro, è qua a Milano. Allora, stavo osservando, intanto Nicoletta, se ci stuzzicasse per una prossima puntata, che Pietro ha un mutuo legato al franco svizzero, e questi mutui qua nelle ultime due settimane hanno avuto delle vicende abbastanza movimentate, legate alla decisione della Banca Centrale Svizzera appunto di sganciare il cambio fisso con l'euro, e quindi praticamente ha permesso questa decisione di far apprezzare, di far riprendere il franco a correre. Non saranno tantissimi in circolazione i mutui di questo tipo, ma ce ne sono, e non è la prima persona che ci scrive, Pietro. Potrebbe essere una bella idea. Ti piace? Vai, sì. Dobbiamo abbinare un bel tema di cuore, naturalmente. Allora, 800 24 00 24, intanto il numero verde per continuare i vostri interventi in diretta. Anna Vizzari, a prescindere dalla nuova normativa, ricordando che la portabilità già la conoscevamo, ci dà il vademecum delle cose da fare se io dovessi decidere di cambiare conto perché il vecchio non mi soddisfa più. Come funziona questa portabilità in termini generali, tenendo appunto in considerazione anche che adesso la normativa è anche un pochino più stringente? Cosa devo fare? Quindi applicando le nuove norme, quindi quelle anche della direttiva, è una mia interpretazione perché, ripeto, ancora non c'è proprio una procedura ben definita. Io interpreto, leggendo la direttiva, che sostanzialmente il cliente va nella nuova banca, che è individuato ovviamente come la banca ottimale per il proprio profilo di utilizzo di correntista, va nella nuova banca e firma un'autorizzazione, quindi un modulo in cui autorizza la nuova banca a fare il trasferimento e ad avviare la procedura interbancaria con la vecchia per poter trasferire il rapporto. Nel modulo indicherà per esempio i bonifici in entrata sul conto corrente, eventuali bonifici permanenti che verranno fatti, che sono fatti periodicamente verso determinate entità, gli addebiti diretti, del trasferimento si occuperà appunto, occuperà la nuova banca con questa procedura interbancaria. Allora, quindi non facciamoci venir voglia di cambiare il conto solo perché passiamo davanti ad una banca che ci piace di più, entriamo e pensiamo di fare l'operazione in due secondi. Cerchiamo intanto di fare mente locale su tutte le operazioni in piedi sul conto corrente vecchio, quindi ricordiamoci tutti i bonifici che facciamo periodicamente. Se magari abbiamo un figlio, che ne so, che studia all'estero, ricordiamoci che ogni mese trasferiamo in automatico una somma, no? Quindi no, Anna, magari il caso di andare con un elenco abbastanza dettagliato per ricordarcelo. Assolutamente, anche perché appunto devono essere indicati questi rapporti, anche queste operazioni da trasferire sul modulo che poi appunto andrà firmato e che sostanzialmente avvierà questa procedura interbancaria, perché poi la legge dice che entro due giorni lavorativi dalla firma di questo modulo la nuova banca si metterà in contatto con la vecchia chiedendole appunto il trasferimento delle operazioni, e la vecchia banca deve fare tutti i trasferimenti entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Quindi già siamo arrivati a 7 giorni lavorativi. Dopo 6 giorni lavorativi il trasferimento avrà effetto, quindi il conto verrà chiuso. Sostanzialmente, sommando tutto, arriviamo ai 13 giorni lavorativi di cui parlavamo all'inizio. All'inizio, quindi sostanzialmente, come vediamo, il cliente non deve fare altro se non arrivare già nella nuova banca con un'idea dei rapporti che ha in essere, quindi bonifici, debiti diretti, firmare il modulo e chiedere il trasferimento. Non deve preoccuparsi più di nient'altro. La procedura terminerà entro 13 giorni lavorativi. Se non termina in questo lasso di tempo, si ha diritto a un risarcimento. Bisogna capire esatto a chi attribuire il ritardo, peraltro anche la banca nuova, siccome 13 giorni, voglio dire, a noi sembra tutto facile, no? Poi però magari, che ne so, a quello sportello arrivano 150 persone, esatto, che in 13 giorni vogliono cambiare conto. Esatto. Anche saranno un po' tristini. No, ma anche l'impiegato che deve mettersi a fare tutto. Questa è una sorta di epidemia del cambio. Allora, volevi parlare con un Carlo? Eccolo. Eccolo qua, ci chiama Carlo da Legnano, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti. Grazie Carlo. Ecco, volevo dare un consiglio alla signora che voleva chiudere il conto corrente. Bravo. Io ho 62 anni, ne ho, cambiando città e robe varie, ne ho chiusi 6 o 7, quindi li ho cambiati. Non ho mai pagato una chiusura di conto. Bravo, perché, dovevamo dire anche questo. Perché se uno non ha coscientemente, lascia problemi alla banca, ma chiude, in questo caso la signora ha 30 euro, che se li tiri su tranquillamente e non stia più a preoccuparsi della banca, perché quando la banca non vede più lavorare il conto per due anni e qualcosa, in automatico lo chiude lei. Quindi lo svuoti e te lo dimentichi. Ma io non credo che sia così automatico, Carlo, perché in realtà se tu hai un conto aperto, anche se hai un saldo a zero, le spese di gestione del conto, anche se sono al minimo, a Navizzari in realtà vengono addebitate, per cui si rischia di farlo andare in rosso questo conto. Esatto. E peggiorare la situazione. Esatto, e poi peraltro nel caso specifico avevamo dei valori in un deposito titoli, per cui non è un conto inattivo, cioè il conto era legato anche ai titoli. Carlo, sarà andata bene, perché esatto, cioè che gliel'hanno addirittura chiuso in automatico. Ora. Però il caso della signora Luzza, perché sì, arrivano, ad esempio Stefano da Milano ci scrive, e se la signora con i titoli a valore zero chiedesse il trasferimento? Non riesce, no, non c'è mercato per questo titolo, non se lo accoglie nessuno questo deposito, questo conto titoli. Esatto. Quindi è sposata mani e piedi, certo, come si dice. Non si può. Stiamo chiudendo, 10 secondi, Anna Vizzari, la chiusura del... Allora, se io mi voglio spostare in una banca nuova, la banca nuova accoglie e mi fa tutta la procedura, il vecchio mi fa pagare questo addio? No, non ci sono spese di estinzione del conto corrente. Quello che bisognerà pagare alla vecchia banca sono i costi di gestione legati al periodo in cui il conto è stato aperto. Esatto, allora quindi vedremo. Se abbiamo ovviamente una tessera bancomat, il costo annuale, certo, che è già stato addebitato, chiediamo il rimborso della parte non utilizzata, per il periodo non utilizzato. E ho idea, sì. No, dobbiamo salutarci, Anna. Purtroppo non ho tempo, ma ci torneremo al più presto su questo argomento. Sì. Seguiremo l'iter parlamentare di conversione del decreto. Nicola dalla provincia di Milano, lei ci scriva sul leasing, è un problema sul leasing, quindi grazie anche a tutti. Giorgio dalla provincia di Treviso, che io non sono riuscita a dare una risposta al suo problema, mi scriva, girerò le indicazioni al professor Vaira, che ricordiamo è gastroenterologo, professore universitario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Per oggi è tutto, vi aspettiamo domani, buona giornata.